Yo yo, questo è Paolito direttamente dal Substrato Studio, Duplici for Life. Dovete fare attenzione perché ci sono Jovez e Bronx, effetto domino sulla traccia. Play this shit. Schiena contro schiena, e questa è la nostra missione. E va così, Jovez, pronto all'azione. Ehi, Bronx, effetto domino! Attenzione ad ogni mia frase, su una base di Dase, frate fatti rapace. Attenzione se parli di me amico, ti rimando a casa con in culo il micro. La fota la vedi ad ogni mio concerto, concentro, sudore e sbattimento che porta al centro di un vortice concentrico, pensiero eclettico, sentimo se medito, metrico, mendico, ferita medico, merito, mentico in cui esprimere ciò che senti dodo, sfumature e messaggio, fino ad unirmi alla natura come nel meriggio. Chiedilo ad Annunzio, apro la mente come l'assenzio. Per questo quando penso, penso denso. Sfida singola tensione, li divido in due. Questo è fa attenzione tipo parte 2. Fa attenzione tipo acqui 2. Provochiamo tensione, Jovez pronto all'azione. Fa attenzione Ciccio, fa attenzione. Torino si muove all'ombra dell'amore. Da sempre c'è chi copre il sole, il nostro cuore suona ritmo boom bam, boom bam. E chi lo ferma muore. Fa attenzione Ciccio, fa attenzione. Torino si muove all'ombra dell'amore. Da sempre c'è chi copre il sole, il nostro cuore suona ritmo boom bam, boom bam. E chi lo ferma muore. Come sempre pronto all'azione. Cisti mi dicono in giro di fare attenzione. Secondo me è diventata un'abitudine mettermi in tensione. Racchiuso nella mia prigione sento una strana sensazione. Con Bronzi vi diamo la soluzione, oltrepassando ogni limite della tua immaginazione. Tra razze siamo tutti uguali, non si fa nessuna distinzione. Pensavi che mi fermavo? Ah, il genio è solo l'introduzione. Trovati un'occupazione, ma è più facile che ti ritrovi disoccupato a lottare con il mensile della disoccupazione. Affilo skills con massima precisione, infrango ogni vostra creazione. Mi difendo nella giungla come un leone, nel deserto più letale di uno scorpione. Ritorno del guaglione per la vostra benedizione, anche se siamo sempre nella stessa condizione. Ormai appena nati la sfiga in dotazione, ma tocca a tutti a rotazione. A parte gli scherzi finalmente ho compiuto la mia missione. Fa attenzione Ciccio, fa attenzione. Torino si muove all'ombra dell'amore. Da sempre c'è chi copre il sole, il nostro cuore suona ritmo boom bam, boom bam. E chi lo ferma muore. Fa attenzione Ciccio, fa attenzione. Torino si muove all'ombra dell'amore. Da sempre c'è chi copre il sole, il nostro cuore suona ritmo boom bam, boom bam. E chi lo ferma muore.